Accogliendo l'invito del New York Times Magazine, e del Corriere della Sera, alcuni noti intellettuali si stanno prodigando per spiegare al popolo quale sia stata la migliore invenzione del cosiddetto secondo millennio. Ha cominciato Umberto Eco cantando le virtù dei fagioli e della loro nobile stirpe rappresentata da piselli, fave, lenticchie, via borbottando, all'insegna di quella proteina vegetale che mai dovrebbe temere la concorrenza dell'infida bistecca. Nel X secolo, dice Eco, iniziano a diffondersi le colture dei legumi, i quali sarebbero in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di una persona che lavora. Aumenta pertanto il contributo di proteine, si diventa più robusti, si muore meno giovani, si fanno più bambini, l'Europa, alla faccia di malattie endemiche e di epidemie, l'Europa si ripopola. Se siamo ancora qui, lo dobbiamo ai fagioli. Più che dalla tesi di Eco, che come tutte quelle che si affidano al rigido determinismo di causa ed effetto, anche se formulate al solo scopo di divertire, lasciano il tempo che trovano, sono stato attratto dall'illustrazione scelta per accompagnarle, queste tesi, sul Corriere della Sera. Si tratta del Mangiatore di fagioli, dipinto dal bolognese Annibale Carracci fra il 1583 e il 1584, quando il pittore aveva solo 23 anni. In esso è rappresentato il classico contadino, cappello di paglia in testa, che si dà da fare al suo umile desco. C'è la brocca del vino, il pane, tre porri, qualcosa che non oso pensare cosa sia, e soprattutto c'è la ricca ciotola dei fagioli, da cui il contadino pesca una bella cucchiaiata con la mano destra. Sono andato allora a verificare la copertina della scatola che contiene i due volumi del Talismano della Felicità di Ada Boni, edito nell'ormai lontano 1968 da Colombo in Roma. C'è effettivamente la riproduzione del medesimo dipinto di Carracci con il medesimo contadino che, tuttavia, lì la sua bella cucchiaiata di fagioli la pesca con la mano sinistra. La riproduzione è rovesciata. Ora, più che il segno di qualche congiura misteriosa, il fatto mi è sembrato l'indizio per ricostruire il senso di un altro rovesciamento, un rovesciamento concettuale al quale noi, ben pasciuti e iperalimentati come siamo, non facciamo più caso. Carracci dipinge il suo contadino che porta il cibo alla bocca con la mano destra in un'epoca in genere e in un contesto in particolare in cui il cibo svolge tutta la sua funzione biologica. I fagioli sono cibo, alimentazione strettamente intesa, condizione primaria di sopravvivenza. Allorché si può parlare del cibo come di un talismano della felicità, è chiaro che la funzione edonica ha preso il sopravvento sulla funzione biologica. La mano sinistra che porta alla bocca i fagioli sta onorando un piatto, un manicaretto, una leccornia, qualcosa cioè da cui non dipende affatto l'integrità della vita, ma al massimo il buon umore. Non più una necessità, ma un lusso. Senza parteggiare per alcuna risposta, Eco, nel tentativo di dimostrare l'importanza storica dei fagioli, si pone anche la domanda circa le condizioni in cui apparirebbe come tale un'invenzione. Lascia al lettore due soluzioni in alternativa. Un'invenzione nasce al momento della prima idea, al momento di quello di un timido prototipo, oppure l'invenzione nasce al momento in cui essa viene riconosciuta e accettata da molte persone. Il problema è mal posto. In quel nasce c'è un trucco. Vi si spaccia l'idea dell'invenzione come del colpo di genio di qualcuno o dell'interruzione improvvisa di una continuità. E così il dubbio rimarrebbe confinato al singolo o ai potenti che lo ratificano. Mentre chi sa guardare la storia della scienza senza gli occhiali di chi, comandando la scritta a propria lode, sa che un colpo di genio si aggiunge sempre a innumerevoli altri colpi di genio, o meglio, che un'invenzione è sempre e comunque un risultato storico e sociale irriducibile al singolo. Sa che nessuna invenzione diventa tale se non si integra nel mercato in cui deve servire, e sa anche che è per l'appunto chi la ratifica come tale che, basandosi sul sistema del dispensare premi e sanzioni ai subordinati onde mantenerli subordinati, divide la storia in momenti e la massa in individui cui conferire o primati o calci nel sedere, a seconda del grado di sottomissione.